uno di Bonnannaro, uno di Trinità da Gultu, l'Isola Rossa, quelle zone là, stanno sul 27565 mi sa, non so se facciano la chiamata sul canale internazionale, poi se ne passano là, a volte l'ho trovato anche lì Claudio, facendo quattro chiacchiere, però non è che entra spesso, più che altro durante la settimana c'è un po' più di gente. Va bene, adesso era tutto agosto, era periodo di ferie, anche io sono entrato poco, sto riprendendo in questi giorni, tutto agosto non ne avevo praticamente toccato di radio, almeno da queste parti. Come ti ho detto Gianni, la radio che avevo messo a posto, il Galaxy Saturn, c'ero a Bonorva e lì mi sono fatto una stazione, però non arrivo sino a Sassari e queste coordinate qua. E da lì parli con Mores, Ozieri, Tiriezzu, Bonnannaro, arrivo in quelle zone lì. Neanche a Macomer, perché c'è tutto il monte sopra e non ti fa passare. Se sali sul monte sì, allora da lì vai, arrivi sino a Bottida, quelle zone là, sino a Bono, Bottida e oltre. Ha senso. Gaffa, sì è così. Vabbè, magari mettendo un'antenna diversa riusciresti a arrivare. Adesso ho messo quella che avevo di recupero, capito? Certo, mettendo un'antenna più prestante immagino di sì, prima o poi la metterò. Ma ti fermi in quella casa lì, ti fermi qualche giorno? E a volte ci andiamo, sì, ci fermiamo fine settimana, a volte capita che dormiamo anche lì. Allora già va bene, che ti fermi. Carlo. Andiamo avanti. Buongiorno, buongiorno. Ma mi ascolti? Ciao, buonasera a tutti. Mi ascolti anche tu da quelle coordinate? Io sono in direzione Sassari, ora vai. Zona Punta Fintino. Ciao, Tito, ti ascolto, Puglia, 9:20. Da Fintino 9:20, ma matto sì. Dove c'è che sei 9:20 qua, tu? No, dov'è che sei? Fintino, ciao Carlo, buonasera. Sera, 9:20 anche a me qua, a bomba. Andò bene, dai, vuol dire che sta funzionando bene questo aiutino. Sì, col camper. Ehi, è positivo. Rientro a casa perché domani si lavora. Ok, ancora traffico c'è da quelle parti a Sentino? Sì, ancora, vabbè, sono quasi arrivato alla rotatoria di Badoglino, quindi ancora non vedo niente, però zona Estivano penso che sia trafficata. Ho capito, perché partenze noi ne abbiamo ancora, ci sono tutti i voli strapieni. E quindi se regge il tempo tutto settembre secondo me avremo ancora i voli pieni. Ciao ti. Ciao già, ti ho salutato. Va bene, dai. No, non ti avevo sentito, va. Poi rientro, dai, dove sei? Sono quasi arrivato alla rotatoria di Badoglino, verso Sassari. Sì, ho capito, dove va. Faccio Davide, dove c'è scritto Stintino. Sicuramente Tino, ti sente anche Francesco da Osilo. Vai Francesco se ci sei. Roger, sì, certo che lo sento. Ti arriva qua abbastanza, diciamo, bene come segnale, anche come radio pure. Ok. Perfetto, comunque mi pare di aver sentito Antonello Pomponio, però qua caro Pomponio sta facendo male tu, la radio non mi piace per niente, non so che cosa stai usando, però la radio è brutta, ok, va bene, perfetto, sempre bisogna riferire sempre, ok, va bene, dai. Certo, Tino, perché certo, io non sento. Stava parlando Dario da Osilo, capito? Adesso Dario dovesse sentire meglio, sono più lontano dal microfono. Ho capito Antonio, non lo sento io. Vabbè, tu sei lì. Non lo sentirò. È strano però, Osilo in alto. Avanti Gianni. Mi stavo ascoltando, sto facendo una cosa, un secondo solo. Ah, buon rientro Tino. Comunque Francesco da Osilo ti sentiva forte e chiaro perché ha risposto, capito? Magari tu non lo sentivi, ma lui ti sentiva abbastanza bene, ha detto. E beh, Antonello, sei rientrato. Ehi, adesso ho cambiato il microfono, dando M95, come sto scendo? Adesso meglio, forse Francesco ti sentiva male, come lo senti adesso? Sto ragazzo, già va bene, adesso va benissimo, con quel microfono lì, L95, sì. Bene, bene, c'è anche una bella modulazione, diciamo, abbastanza corposa, eh. Ok, già va bene adesso, ti sento bene. È attaccato al tempo, da 140. La voglia che c'è bene, se attacco questa lenta ti distruggo del tutto del radio. Ah, pure il 140 c'è, ai, sei, cosa che non ho appena. Vabbè, ok, ognuno c'ha quello che c'ha, che usa quello che deve usare, va bene, va bene. Comunque adesso è molto migliore, prima la modulazione è tutta strampigliata, tutta malmessa, adesso già è chiara, ripeto, confusa, beh, è chiarissima, va bene, evidentemente quel bel microfono, quello lì, niente, dai, già va bene adesso, lascia così, già va benissimo, ok, va bene. Riprendi Carlo, te il cambio. Sì, a France. Niente, Antone, quelle radioline che ti ho canalizzato andavano bene, le hai trovate? Ehi, ce li ho dove stavo volando, ce li ho. Li uso tutti i giorni per poter fare quel lavoretto, capito? E quindi per stare in contatto tra me e il mio collega. E abbiamo te, in pratica, c'è anche la mia, l'altra. Oggi mi sono incasinato con qualcosa, ho toccato i pulsanti, ma non... E mi sono incasinato la... V5 di più plus mi si è incasinato. Bisogna che... Cerco di sbloccarlo, se ce la faccio, se no resettiamo tutto e si rifà il programma. Si possono resettare comunque. Sì, c'è scritto nelle display, reset di fabbrica e si può resettare e riprogrammare. Esatto, tanto quella canalizzazione là ce l'ho in memoria nel programma, ce l'ho salvata, quindi ci impiego un attimino e collego la radio e ti scarico quei canali lì, capito, e 5 minuti ci vuole. E va bene, non c'è problema per quella. Adesso devo sistemare, ma è tutto il vatimetro del lineare che ho io, dello Speedy CTE, tanto non lo sto usando quel lineare. A me un po' di ammonolva te lo regalo, ma non faccio niente, tanto sto usando questa grande, poi gli altri due baracchini, almeno con 100 watt esci di lì da là. Vediamo, quanto è 100 watt? Sì, 120 ne dà. C'ha una valvola, non è la L519, ma è quella americana, capito? Non fa di più in pratica, però già va, funziona benissimo. Tu puoi fare tranquillamente con 7 watt, 5 watt, esce benissimo. Qua mi stai arrivando a bomba, fondo scala, Antone, abbassa un pochettino. Sì, sto con 10 watt solo, figurati. Perché già siamo anche vicini, eh. È quello, mi siamo vicini. Mi sto con 10 watt fondi. Figurati, non so se do 100. Una volta usavo 100 watt con cosa, un 2009. Quella valvola già te lo ricordo, che può essere fermo da parecchio tempo e quindi ti sistema il vatimetro che se potete non usarlo, adesso non sta funzionando, bisogna che lo controllo e glielo cambio, così almeno quando schicci ti segna il miliampere e sai quanti watt c'hai. Abbassa il macchinino. Abbassa il micro, se c'è la sua C6, ce l'ho. Abbassa il microfono, guarda un po'. Va meglio così, dai. Va meglio adesso, va lì. Eia. Ah, vabbè. C'è un vecchio che mi fa di male, ragazzi. Sento questo... cavolo, cavolo, mi è entrato dentro. Adesso l'ho messo la, come si chiama, le gocce. E vediamo un pochettino. Posso rifare bene, avrà giocato del male quel capo di cornetti che vendono dai ospiti. Me l'ha messo dalle orecchie per fare pulire le orecchie, l'altro giorno ha fatto peggio, posso rifare meglio. Dall'asino della crucca vai. Se intanto c'è qualche fiammazione, perché mi fa male, capito? Ha giocato una cagata, ha giocato, la fanculo a me, potevo lasciare come era la cosa, mettevo le luci e facevo fare le cose normalmente, invece mi sono messo questi corpi, mi sono pulito le orecchie uno e l'altro con quei corpetti e ho peggiorato, evidentemente il cerume è salito su e mi sta toccando, capito? E magari hai pigliato poi più d'aria, mi sa assai. Sensato c'è anche quello, perché in macchina stavo usando la, come si dice, la recondizionata, hai capito? Quindi mi arrivava in faccia. E caffa, anda bene, mira. Ciao Carlo, buonasera. C'è anche Gianni e Francesco Uranio da Osilo facendo quattro chiacchiere e niente, c'era Cristian, prima si è sentito, stava rientrando a Sassari e poi forse è entrata a Città Mercato e non l'abbiamo più sentito. Vai pure Gianni, ci sei ancora? C'è anche Tino Muscolo, Gianni deve essere uscito. Tino, ci sei? Avete già arrivato. Tino Muscolo, ci sei? No, evidentemente è già arrivato a casa, senz'altro. Francesco, Anio. Tutti scappati sono. Vabbè dai, rimaniamo noi. Rimaniamo noi, se sono scappati tutti. Magari si sono spostati un attimo, poi qualcuno rientrerà. Ebbene Natali, come va? Come stai? Ero da un po' di tempo che non ti sentivo in radio. Non ce ne voglia, no. Non ce ne voglia. Purtroppo sono anche impegnato, quindi non me ne veniva voglia di entrare. L'ho acceso stasera così, non lo so manco io. Io lo stesso ad agosto poco e niente l'avevo accesa la radio, adesso come rinizia l'autunno magari siamo un pochettino più casalinghi e qualche volta ci sentiremo. Sì, ho visto qualche volta ho acceso ma non c'era nessuno, a seconda delle fasce orarie, capito, non c'è proprio nessuno dopo pranzo oppure metà mattinata. Qualche volta ho sentito Giulio, ma adesso è da un po' che non lo sento. E anche io, magari di mattina può darsi che c'era Giulio e cosa, ci ho fatto qualche chiacchierata, ma in estate si sa che c'è poca gente. L'estate è sempre stato così, la gente va al mare, insomma, e c'è altre alternative, quindi c'è meno chiacchiera, però finita ormai l'estate, almeno quella del mare, e qualche turista c'è ancora in giro però, Mica. Davvero? Certo che è vero, signor Alfine. E adesso in autunno, in inverno già rientrerà la gente. Parecchio che non sento neanche Antonio, che spesso entrava anche lui. Da poco ho sentito Claudio, con Gianni lo stesso, già ci siamo sentiti anche qualche giorno fa. Piano piano già stanno rientrando tutti. Se c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10. Io ce l'ascolto, ciao Natale. Ciao già, ben sentito. Io sono Andoloni, non ne ho voglia. Via. Sono Andoloni, ho la gamba e non ne ho voglia di parlare. Sì, vabbè. Fregatene. Ma lo sappiamo quanto ti non ce ne voglia di modulare. Ma ti sta un pochettino martoriando quella gamba già. Speriamo che ti trovino la soluzione, però dovresti fare più accertamenti magari e vedere un po' di cosa si tratta. Ne ho fatti tutti gli accertamenti, ho fatto anche anche la risonanza magnetica, l'astre, sono andato dall'ortopedico, adesso devo andare da un'equipe di ortopedici chirurgici. Ho capito, dai, speriamo che trovi la soluzione, perché da quello che mi avevi detto dolori lacinanti, no? Sì, da non dormire la notte pure, non ti dico altro, la notte meglio no. Non ti danno niente per i dolori di notte? Sì, ho fatto le iniezioni in volta nei muscoli, ne ho fatto 15 già, in più ho preso l'ulti, una pomata, più di quello che sto facendo, non ti fanno nulla, se l'osso è quadrato e non è rotondo, non c'è nulla da fare. Ho capito, dai, pazienza, speriamo che trovi la terapia giusta. A me mi sa che l'unica terapia giusta è l'operazione. Se ci vuole si fa anche quella, già, purtroppo è così. Tonello, ci sei ancora? Ehi, sono qua, sono qua. Natalia, ma quel tecnico che è venuto di fronte a dove abiti tu, oggi quando se ne mette cazzo la scala gliela fu tutta, la scala doppia cazzo. Cos'è Antonè? Ah, Graziano, quel tecnico che è babbozziente, ha fatto l'impianto d'antenna, ci ha lasciato la scala in quel palazzo là e gli avevo fottuta, cazzo, quando era sera mi ha telefonato il chato e mi ci hai messo tu la parte della scala, io ho detto io veramente sono stato, ci avevi tu, le lasciate mezzo a piedi della scala e mi ha domata, mi ha detto come fa una domata dentro una scala, dentro un palazzo se non c'è quasi mai nessuno quel palazzo, detto. E ha lasciato tutto il giorno il portone aperto, c'era quella sera ne vici un treno di Buracala, sono a tardi che andò vedono bere veniani Buradda. Senz'altro così. Mi aveva telefonato verso 10:30, 11, lui è andato via, anzi io sono andato via verso 9:30, da lì. Poi lui, ha detto noi andiamo, stiamo già andando, ho detto ci sentiamo, gli ho detto. Va bene, adesso recupero tutto e poi vado via, via anch'io. E invece mi chiama le tre, mi ha rubato la scala, ho detto, ma tu sei rincoglionito forte, gli ho detto. Metto lì sopra la scala, detto, come fai a dimenticarti una scala e mezzo ai piedi? A parte che mi devo mai scendere anche, perché l'ha messa nell'angolo, c'è un pezzettino di scala che è stato a triangolo come ce l'ho io. Ed è pericoloso quel pezzo lì, capito? Ci sono stato io avanti ieri. Per non sfasciarsi delle bottiglie del suo, mi sono fatto male io alla mano. Okay? Quando c'è la scala che fa angolo così è pericolosa. Ma deve essere l'angintato, perché io ho visto che c'era il portone aperto tutto il giorno, ma poteva chiudere anche il portone, così almeno non entrava nessuno. Chissà che l'entrata e veniva pigliata, deve essere che la vicchio, che se ne è andato, sono entrate e veniva nevata. Sono dei delinquenti qua. Sì, ma adesso avevano fatto, una scala doppia, mi sembrava lunga 6 metri, quindi, no, 4 metri, quindi, ma bisogna accedere ai soldi, si è comprato il furgone nuovo, quindi no, se l'ha comprata subito nuovo, ha fatto l'impianto, adesso vede quel ragazzo, a me la posta. Perché qua ci sono rumeni, ci sono nigeriani, chissà è azzardo a pigliarsi mira. Visto che c'è rumeni, al fratello di Adriano l'hanno fatto nuovo nuovo. Ogni tanto entrano in officina e ne rigurano tutto. Già lo so, i rumeni specialmente, mamma mia. Quindi girano, come trovano roba dentro al portone e se la portano via. Andare avanti Carlo. Evidentemente la scala buona, l'hanno vista, se l'hanno portata via, maledetti. È corta, non è quelle scale, se sono quelle che diventano lunghe sino a 4 metri, costano anche una settantina se non di più. Sulle 100. Esatto, esatto. Dipende poi dalla marca, dal modello e dalla qualità. Anche 100 euro e passa, cioè, ne ho visto io. Sì, da Brico ci sono quelle d'alluminio. In alluminio, è quella doppia, e poi la mette dritta e si sollevano gli altri due pezzi, capito? Quella gli hanno portato via. Infatti mi è dispiaciuto, gli ho detto vabbè, e se la comprava nuova, ma pure lui, c'era il figlio insieme a lui, che è passato sopra quella scala, perché nel punto dove l'ha messa proprio nell'angolo, e che c'è quel gradino fatto a triangolo, quindi se sbagli poco a poco ci scendi la scala, ti ammazzi. Sì, ma lo sbaglio, lo sai cos'è, che hanno lasciato il portone aperto, se è sempre chiuso quel portone tu la capisci. Ma cosa lui ti dica? A me se mi rubano la roba che c'è al portone mi fanno un favore, tanto la devo buttare via, quella che c'è. Ma chi l'hanno fregato? Ah, Graziano, un tecnico che fa questi lavori di impianto d'antenna, capito? Poveraccio, gli hanno portato via la scala, vabbè, forse chissà cosa stava pensando. Magari l'ha chiamato qualche cliente ed era già in ritardo, è partito con furgone, si è dimenticato la cosa lì, magari ci ha lasciato il portone anche aperto e l'ha addentato. Infatti ho detto, gira gira lo telefono a quella persona lì a vedere come mai è aperto il portone. Perché io l'ho visto tutto il giorno aperto, è rimasto, perché lui non ha avvertito, almeno se l'avesse chiuso, suonava da quella persona e glielo apriva, no? E non gli toccava niente nessuno, perché quel portone noi l'abbiamo uscito. Va pure la serratura blindata. Ma allora lo sai com'è, cerca l'occasione. Sicuramente sono qualche rumeno del vecchio. Qua ne circolano parecchi, rumeni, nigeriani, sono tutti delinquenti, dallo primo fino all'ultimo. L'occasione fa l'uomo ladro. In questo caso l'occasione fa il rumeno ladro. Ah, il rumeno della fregata. Sì, sicuramente, anche il rumeno che mi ha furata. Stesso che la via ricchio io, mi ha risicato anche subito. Va bene giovani, sono le 8:20, ce la risentiamo, vi saluto, alle prossime se ci siete domani, forse rientro dopo cena, un'oretta se c'è qualcuno, e vado a preparare adesso, dai, se no non esco più. Ciao Natalino, ciao Gianni, ciao Antonello, Uranio se sei ancora in ascolto, ciao e a tutti gli altri, buona serata a tutti. E ciao Carlo, già. Anche io saluto tutti e me ne faccio in quei letti. Ci sentiamo alle prossime, dai. Salutoni a tutti, anch'io con quei letti, dai. Ciao Carlo, ciao Natalino, con quei letti, dai. Ehi, ciao a tutti, ci sentiamo. Adesso cucino la roba per Simona. Almeno è tranquilla. E poi ci sentiamo. Arrivederci domani. Buona cena a tutti, alla prossima. Ciao Antonio, ciao. Per te ma c'è il bip. Eh? Il bip ti ha messo le 104. L'M95 ho lanciato. Sono stato il microfono M95 le 140. Ah, ho capito. Sì, già pompa, già. Sono con l'amplificazione a neanche messa, figurati. C'è stata questa delta troppo amplificata, mi porto tutti i rumori dietro, capito? Nel televisore, eccetera, eccetera. Ok, già ci sentiamo domani, già, dai. Salutoni belli, ciao. È anche troppo forte lì. Lo so. Vabbè, ciao, ciao, che cucino la roba Simona, sono Marsilla. Già mi viene ogni giorno alle 10:30, oggi sono rimasto a casa per completarla anche ieri. Sono di sotto, io rientro alle 10:30, 11 di notte, non mi viene neanche da cena. Ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.